9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 20 di gennaio. Oggi in concomitanza con l'uscita, per una volta non seguiamo i giornali, arriviamo prima dei giornali italiani, perché in concomitanza con l'uscita sul Wall Street Journal di uno degli appuntamenti obbligati annuali delle graduatorie di competitività comparata internazionali, cioè in occasione della anticipazione da parte del Wall Street Journal, lo trovate pagina 15 del Wall Street Journal Europe dell'edizione di oggi, del rapporto, anzi del Index 2010 delle libertà economiche, ci occupiamo di capire come sta messa l'Italia in questo rapporto e che cosa questo rapporto fotografa. Allora, l'indice della libertà economica, lo ricordo a chi non lo rammentasse, è un grande rapporto che ogni anno viene elaborato dalla Heritage Foundation, uno dei think tank mercatisti americani di più lunga tradizione. È un rapporto che ha molti anni oramai. Per l'Italia, insieme alla Heritage Foundation, il partner nell'elaborazione dei dati e nella valutazione è l'Istituto Bruno Leoni, ed è un rapporto che mette insieme 10 indicatori diversi. Quali sono questi indicatori? Lo vedremo quando poi tra poco esamineremo la posizione dell'Italia. Sono comunque la libertà d'impresa essenzialmente e la libertà fiscale, la spesa pubblica, la libertà monetaria, la libertà di investimento, quella finanziaria, i diritti di proprietà, la libertà dalla corruzione e la libertà nelle leggi del lavoro. E questi 10 parametri vengono elaborati paese per paese in maniera tale poi da divenire a una fotografia complessiva. Qual è il risultato, la fotografia che viene da questo rapporto quest'anno? Il primo elemento, diciamo, se diamo un'occhiata a quello internazionale, è sicuramente che la discesa degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, per via del massiccio reingresso dello Stato nel mercato dopo la crisi economica, nel settore bancario, nel settore dell'auto, nel settore delle assicurazioni e così via, sicuramente per questo perde posizioni, ed è a questo infatti che va il titolo del commento del Wall Street Journal di oggi. Gli Stati Uniti non sono liberi come eravamo abituati a considerarli, il titolo dell'editoriale firmato da Terry Miller, perché gli Stati Uniti perdono terreno su ben 7 delle 10 categorie della libertà economica che abbiamo visto, e perdono quindi circa 3 punti sul totale dei 100 naturalmente dell'elaborazione del sondaggio, scendendo dal 6° all'8° posto. Sono molti anni oramai che il paese più libero secondo questa graduatoria comparata al mondo è Hong Kong, seguito da Singapore, al 3° posto l'Australia, poi al 4° la Nuova Zelanda, al 5° l'Irlanda, la tigre celtica che per quanto sia veramente colpita dalla crisi dell'immobiliare e degli attivi bancari nel 2009, resta il paese europeo assolutamente più libero dal punto di vista del mercato, al 6° posto la Svizzera e così via. Ci sono quindi dei paesi che perdono posizioni per via del ritorno dello Stato nell'economia, come gli Stati Uniti, ma anche come la Gran Bretagna, e ci sono dei paesi invece, soprattutto quelli in via di sviluppo e come quelli dell'est Europa o asiatici, quindi paesi come la Polonia, la Corea del Sud, il Messico, la Germania e persino la Francia, che riescono a mantenere o a migliorare la propria posizione, perché evidentemente lo Stato, pur in alcuni di questi paesi in una tradizione statalista molto forte, in questo 2009 non ha dovuto riespandersi. Torniamo, non ha dovuto riespandersi troppo rispetto a quelli invece in cui c'è stato un eccesso di esplosione dello Stato, come appunto gli Stati Uniti. Se guardiamo all'Italia, e poi vi presenterò gli ospiti e faremo un commento su entrambe le fotografie, quella italiana e quella internazionale, l'Italia, ohimè, è 74esima in materia di libertà economica nel 2010, secondo l'indice elaborato dalla Heritage e dal Wall Street Journal in collaborazione con il Bruno Leoni. Certo, migliora di 2 posizioni rispetto all'anno precedente, rispetto all'indice 2009, quindi il nostro paese viene considerato libero al 62,7%, però questi 1,3 punti percentuale in più rispetto alla graduatoria dell'anno scorso, che ci fanno risalire di 2 punti in classifica sono in realtà dei modesti avanzamenti nella libertà di scambio e nella libertà di investimento. Quello che ci porta molto in basso rispetto a tutti gli altri paesi europei e i paesi importanti, vi faccio notare che rispetto alla nostra 74esima posizione la Francia, pure un paese molto statalista, è 64esimo, il Portogallo è 62esimo, l'Ungheria 51esimo, la Spagna è 36esima, 23esima la Germania, pensate a quale distanza dall'Italia, l'Irlanda ve l'ho detto è quinta, ma insomma quello che fa molto andare verso il basso la collocazione italiana in questo rapporto che è sulle libertà degli operatori economici sono i punteggi tradizionalmente bassi del nostro paese. Pensate che se la libertà d'impresa è considerata al 77,9 punti su 100, la libertà fiscale è 54 punti su 100, la spesa pubblica è 31,2 punti su 100, quindi è molto stato. Che altro ancora? Diritti di proprietà 50 punti su 100, perché le vertenze giudiziarie sono lente e quindi la certezza del diritto, soprattutto privato e commerciale, non è garantita, se non in tempi tali da non renderla garantita nella graduatoria internazionale. La corruzione è un punto che pesa molto nel portare in basso il nostro paese in graduatoria, 52 punti percentuali su 100 solo, cioè siamo su 179 paesi, siamo al 48esimo posto e questo ci porta molto in basso rispetto al totale dei paesi invece sviluppati. Nella libertà del lavoro abbiamo guadagnato dei punti negli anni alle nostre spalle, lo sappiamo, l'effetto del pacchetto Treu, della legge Biagi, e ciò malgrado questa Italia iperliberalizzata che sembra molto, in realtà prende solo 61 punti su 100 in quanto a normative del lavoro, che quindi vengono considerate in prospettiva comparata ancora oggi piuttosto rigide. Ecco, questa è la fotografia. Naturalmente la premessa è che, come tutti i rapporti comparati, immagino che molti di voi e molti degli osservatori trovino discutibili i criteri con cui è stato fatto il peso delle 10 voci, con cui sono stati esaminati paese per paese. È notissimo che per esempio il ministro dell'economia Gillo Tremonti diffida terribilmente di questo tipo di cose, che dicono figuriamoci, mi trovo per esempio paesi come Macao al 20esimo posto, non farei mai cambio con Macao, paesi come il Bahrain al 13esimo posto, andateglielo a dire ai dipendenti, ai lavoratori italiani, che è meglio il Bahrain al 13esimo che l'Italia al 74esimo. Tuttavia, ripeto, questa graduatoria, che ha soprattutto quella della libertà di mercato, fotografa i criteri in base ai quali per esempio gli investimenti diretti esteri, il grande flusso di capitale globalizzato, valuta dal punto di vista dei minori vincoli, sì, lo dico questa terribile formula che da un anno e mezzo a questa parte sembra la violazione di chissà quale cosa, minori vincoli, cioè io non credo affatto che noi stiamo andando a un mondo nel quale viva il ritorno dello Stato su tutto. Minori vincoli sono e resteranno il criterio in base al quale gli investimenti diretti esteri considereranno una delle condizioni essenziali per decidere l'allocazione della propria scelta di portafogli internazionali di investimenti produttivi o finanziari. Certo, c'è poi la redditività dovuta alla produttività dei diversi sistemi finanziario, economia reale, manifatturiero, eccetera, ma la libertà è una delle condizioni di fondo, e su questo io credo che bisogna essere grati alla Heritage, al Wall Street Journal e al Bruno Leoni in Italia, che continuano a richiamarci a una canzone che nei tempi del ritorno allo statalismo molti tendono a voler dimenticare o a credere che sia giusto dimenticare. Fine della mia lunga predica iniziale. Gli ospiti di oggi che sono con noi collegati, ai quali lascio la parola, innanzitutto Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, e quindi ci dirà ulteriormente di cosa pensa del rapporto che ha cooperato a stilare. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Poi abbiamo Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera. Avete letto, spero, o se non l'avete fatto, leggetelo, il suo ultimo libro, Lo Stato Canaglia, come la cattiva politica continua a soffocare l'Italia. Già il direttore dimenticato straordinario del Corriere. Buongiorno Stellino. Buongiorno, buongiorno. Luca Ricolfi, che ci insegna all'Università di Torino e poi con i suoi editoriali sulla stampa e non solo, da anni a guardare con attenzione ai numeri e alle metodologie di numeriche comparate delle graduatorie di competitività come della contabilità pubblica italiana. Buongiorno professor Ricolfi. Buongiorno. E Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi, scrive sul Sole, esperienza italiana internazionale comparata. Buongiorno professor Perotti. Buongiorno. Stagnaro, allora ovviamente lei è uno dei cooperanti, quindi non è che può criticarlo sto rapporto, ma in sintesi estrema, la fotografia internazionale mi preoccupa soprattutto in questa, è troppo preoccupante o non troppo preoccupante dal suo punto di vista? È molto preoccupante, nel senso che l'indice 2010 e probabilmente l'indice 2011 fotograferà in modo ancora più visibile questa dinamica, rileva l'effetto che le politiche di stimolo hanno determinato nei paesi che le hanno adottate, in primis Stati Uniti e Gran Bretagna, ma anche la Cina, che è una delle nazioni che vedono peggiorare in misura più significativa il loro punteggio in libertà economica. È chiaro che le politiche di stimolo hanno un impatto negativo sulla libertà economica, perché in varia forma prevedono un incremento dell'interventismo governativo nell'economia e quindi una riduzione dell'orizzonte di certezza e una riduzione delle opportunità di investimento, e quindi nel lungo termine, a prescindere dai benefici che possono, o secondo me nella maggior parte dei casi non possono generare nell'immediato, nel lungo termine indeboliscono le prospettive di crescita di un paese. E da questo punto di vista sicuramente l'Italia può, tra virgolette, vantare una buona performance, nel senso che mentre altri, appunto Stati Uniti e Gran Bretagna, ma anche Islanda, Cina e altri, hanno adottato pesanti politiche di stimolo e quindi sono arretrati nella libertà economica, il nostro paese non l'ha fatto per prudenza, evidentemente, nei confronti dello Stato non eccelso dei nostri conti pubblici, e quindi quantomeno abbiamo ottenuto le posizioni, non siamo peggiorati sotto questi profili, siamo migliorati modestamente sotto altre voci, in particolare le due che citava lei, investimenti, libertà di investire e libertà di scambio, sulle quali però, va detto per onestà, in grande parte il miglioramento dipende da politiche comunitarie sui dazi monetari e non monetari da un lato, sul rifiuto della Golden Share dall'altro, che hanno avuto un impatto sul nostro paese perché ha dovuto adeguarsi. Detto questo, sicuramente è positivo che per quello che attiene le scelte nazionali non abbiamo compiuto errori fatti da altri, è negativo il fatto che continuiamo anche nel 2010 a non aver fatto quelle riforme che sappiamo da molto tempo che devono essere fatti e che l'indice della libertà economica, perlomeno da quando viene compilato, ci dice che devono essere fatte, tant'è che il nostro punteggio è sostanzialmente stabile, senza grande variazione verso l'alto o verso il basso fin dal 1995. Signora, una domanda per capire meglio questo peso così negativo della corruzione nel giudizio dell'Italia. Tra l'altro rispondo anche all'ascoltatore che mi mandano messaggi sardonici dicendo: il suo governo non lo considera. Guardate, vi sbagliate a considerarmi portavoce di questo o di quello, forse avete sbagliato rete, su questa rete non si fanno questi ragionamenti, tantomeno io, lo dico a chi continua, perché a quel punto giratelo il vostro selettore, andate su da un'altra parte se ci considerate portavoce di questo, di quello. Ma detto questo, quello che colpisce è che sicuramente il giudizio dato sul livello di corruzione del nostro paese rispetto a tutti gli altri paesi avanzati resta molto pesante. Ma non c'è un problema qua di indicatori? Quali sono gli indicatori che vengono seguiti? Sagnaro. La Heritage Foundation e il Wall Street Journal non producono statistiche proprie, ma costruiscono un indice sulla base di statistiche disponibili da altre fonti. Per quel che riguarda la corruzione, la fonte di questo dato è la classifica che viene compilata ogni anno da Transparency International, e che in realtà non misura direttamente la corruzione, ma misura attraverso interviste a imprenditori e manager la percezione della corruzione. È ovvio che si può ritenere che questo tipo di rilevazione non dia un'immagine fedele del paese. È possibile che l'Italia di oggi sia meno corrotta rispetto a quanto la corruzione viene percepita. Il problema ovviamente è che è difficile misurare un fenomeno del genere, e quindi bisogna fare la frittata con le uova che si hanno. È chiaro che il nostro paese viene significativamente peggiorato, il punteggio del nostro paese risente in misura significativa di una valutazione davvero negativa dal punto di vista della libertà della corruzione. Prendiamo il 48%, la corruzione è importante nella prospettiva della libertà economica perché indebolisce le certezze rispetto al quadro normativo, perché crea sostanzialmente un canale parallelo informale per fare le cose, e quindi rende più complesso il calcolo economico e la formazione delle aspettative. Detto questo, io credo che sarebbe ragionevole interrogarsi in maniera pesante sull'affidabilità di questo indicatore se l'Italia fosse un paese che prende ovunque 100% e poi il 48% sulla corruzione, per cui effettivamente la corruzione sarebbe una zavorra che trascina verso il basso l'Italia, ma poiché la corruzione ci dà 48%, che è sicuramente sotto la media degli altri indicatori, ma è comunque in linea con tutta una serie di altri parametri che si basano su statistiche più oggettive, su tutte la libertà fiscale 55% o la spesa pubblica 31,2%, allora mi porrei relativamente meno, almeno per quel che riguarda la composizione dell'indice, la questione della corruzione, e relativamente di più il problema rispetto a certo, il basso punteggio in questi altri. Non facciamo bene. Professor Perotti, è noto, insomma, in queste ultime settimane abbiamo visto che cosa capita nell'avvio di questo prossimo, profondo, lungo, approfondito dibattito che il ministro Tremonti ci chiamerà tutti a fare per i prossimi 3 anni, per capire come rifondare i pilastri dell'ordinamento tributario italiano. Detto tutto questo, le chiedo, nel mutato quadro internazionale, lo Stato che torna e così via eccetera, conta meno di prima, come prima, o in prospettiva poi quando arriva la ripresa forse anche più di prima, che i livelli di scarsa chiarezza innanzitutto, grande pervasività aggiungo, e poi fine anche di peso delle aliquote del sistema fiscale sui contribuenti, quindi cito 3 cose diverse, siano più pesanti nel nostro paese che altrove, o altrimenti siamo con la crisi entrati in un mondo, secondo lei, in cui questi aspetti contano meno di prima, è finito il neoliberismo, tutte le cose che dice Tremonti, ma non da solo, mettendo insieme pezzi della tradizione culturale che stanno su entrambi i versanti dello schieramento. Lei come la vede? Ma non ho un'opinione precisa e ben definita su questo, però secondo me l'aumento del ruolo dello Stato, lei citava prima gli Stati Uniti, ovviamente c'è stato negli Stati Uniti, in Gran Bretagna soprattutto, ma anche in altri paesi europei, secondo me non bisogna esagerare questo ruolo, perché presumibilmente, almeno l'intenzione dei legislatori, dovrebbe essere temporaneo. Secondo me quello che veramente differenzia l'Italia non è questo aspetto dell'aumento della pressione fiscale, quello che differenzia l'Italia è il fatto che è sempre stata più alta. Infatti ci sono 2 settori che ci uccidono in questa classifica, che sono spesa pubblica e libertà fiscale, che di fatto sono la stessa cosa, perché misurano l'intervento dello Stato in economia, cioè il rapporto tra spesa pubblica e GDP. E prodotto interno lordo, ma ci sono poi altri 3 settori che secondo me sono più importanti, che riflettono 2 cose essenzialmente. Uno è la qualità del settore del giudiziario, cioè la lentezza delle decisioni e la corruzione, che vengono fuori, se si legge la descrizione del caso italiano, vengono fuori un po' tutti i 10 settori. E il secondo punto di cui non si parla tanto è l'indice di libertà finanziaria, che è basata su alcuni criteri, tra i quali il fatto che il settore bancario è molto concentrato, cioè 5 banche hanno più del 50% degli attivi totali del settore bancario, e il fatto che l'intervento dello Stato in varie forme nel settore finanziario è ancora alto. Di fatto sappiamo che lo Stato orienta le scelte, influenza le scelte dei vertici delle maggiori banche, le fondazioni, nonostante siano di diritto privato, in teoria sappiamo benissimo che sono dirette dal settore pubblico. Quindi questi 2 aspetti, il settore giudiziario e il settore finanziario, secondo me sono gli aspetti più importanti, che sono un po' sottaciuti in questa classifica. Ecco, e quindi forse probabilmente ci porterebbero persino più in giù, non certo più in su. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino vi ricorda che ci stiamo occupando di questa Indice delle Libertà Economiche 2010, che esce oggi, che mette insieme in maniera comparata da diversi anni a questa parte, quella della Heritage Foundation, del Wall Street Journal e per l'Italia dell'Istituto Bruno Leoni, gli andamenti sulla libertà economica. Io ve lo dico per che molti ascoltatori stanno mandando messaggi in cui ci chiedono: ma come la corruzione? Ma come? No, questo non riguarda la produttività, questo riguarda 10 indicatori di libertà economica, quindi la libertà di impresa, quella di scambi commerciali, quella finanziaria, nei diritti di proprietà, la libertà fiscale, spesa pubblica, monetaria, di investimento. Ma stiamo parlando di libertà negli affari, la libertà nella comunità economica libera, di mercato, diciamo così, è considerata da sempre una delle questioni fondamentali su cui si misura la propensione ad allocare risorse in termini comparati. E questo lo dico per molti che chiedono: ma come, grazie alla crisi, perché andate dietro ancora alla libertà? Quello che conta è altro, è la protezione, la tutela, la sicurezza. Capisco che il dibattito da quasi 2 anni a questa parte induce molti di voi a ritenere che la libertà economica non sia più il punto di fondo. Io personalmente ritengo di no, e sicuramente chi ha compilato il rapporto ritiene di no. Molti accademici molto più prestigiosi di me continuano a battersi perché nel mondo la libertà nel valutare i diversi aspetti giuridici, amministrativi, fiscali, tributari, cioè tutto il complesso di incentivi e disincentivi che arrivano alle libere scelte di centinaia di milioni di operatori ogni giorno, sia da considerare al centro della griglia di priorità e non come una cosa perenta, ferita, moribonda, giustamente moribonda per effetto della crisi. Questa è la mia premessa personale, alla luce della quale però chiedo al professor Ricolfi. Detto tutto questo, però, quello che conta è anche un pochino poi il criterio con cui questi rapporti vengono fatti. Ora, noi gli abbiamo dato solo l'anticipazione di quello che esce oggi, però in realtà lei avrà dato un occhio anno per anno a questo, al lavoro che fanno quelli della Erice, eccetera. E quindi che opinione in realtà ne ha dal suo punto di vista, che è molto strutturato? Questo tipo di strumento secondo lei è elaborato e tarato con un criterio che andrebbe perfezionato per l'Italia? Prima domanda. Secondo, quanto è utile secondo lei questo tipo di graduatoria così sulla libertà rispetto ad altre, sulla produttività, la competitività, la produttività multifattoriale, di quella del lavoro e così via? Ma io sono abbastanza perplesso sempre con queste graduatorie. Qualche anno fa feci uno studio comparando le graduatorie internazionali e scoprì una cosa curiosa, che anche se si prendono graduatorie che in linea di principio dovrebbero misurare quasi la stessa cosa o la stessa cosa, in un passaggio su due, cioè nel passaggio da un anno all'altro, le graduatorie forniscono risultati opposti, cioè in una graduatoria l'Italia, non so, guadagna 2 posti, in un'altra graduatoria ne perde 1. Questo naturalmente è ovvio, perché queste graduatorie sono tutte basate su miscele di indicatori in parte uguali, in parte diversi, con pesi arbitrari, cioè non c'è un modo univoco di dare i pesi. Quindi sul fatto che l'Italia vada avanti o vada indietro in un anno io non gli do nessunissima importanza. Quello che è importante però, per cui è utile che si facciano lo stesso queste graduatorie, è che ci sono invece gli ingredienti su cui sono costruite, che più sono analitici, più sono specifici, voglio dire, più ci forniscono delle informazioni. Allora, sapere che in Italia la pressione fiscale, che so io, in un certo anno è aumentata di 0,4 è un'informazione, che poi dal frullatore di questa informazione con altre 50 venga fuori che la posizione in Italia è andata avanti e indietro, questo invece non dice molto. Io penso che dobbiamo andare a guardare alcune cose soprattutto. Per esempio, io sono convinto che sia molto molto molto importante l'aspetto giuridico, cioè il far rispettare i contratti. Questo nel nostro paese è debolissimo. Ad esempio, se ne prendiamo un'ennesima graduatoria, quella della Banca Mondiale, noi abbiamo perso 4 punti in base all'ultimo, 4 posizioni rispetto agli altri paesi nell'ultimo anno. Ecco, la libertà di fare impresa nel nostro paese è molto minore che in altri paesi. Abbiamo delle zone del paese, soprattutto nel mezzogiorno, in cui la libertà in un certo senso è troppa, nel senso che non ci sono lacci e lacciuoli, perché quasi tutto è in nero, ma i contratti li fa rispettare la criminalità organizzata, non lo Stato. Quindi Io penso che la giustizia, il funzionamento della giustizia civile, la capacità di far rispettare i contratti sono la precondizione di tutto. Poi l'altro aspetto che è molto preoccupante è che noi quest'anno, nel 2009, non so quanti dei dati di questa graduatoria dell'Istituto Bruno Leoni siano del 2009, ho visto che alcuni sono 2008 per forza, però noi sappiamo dalle stime che sono state pubblicate anche dal governo che l'Italia quest'anno ha raggiunto un record, cioè l'interposizione pubblica intesa come somma di tutte le entrate statali e di tutte le uscite ha raggiunto per la prima volta nella storia dell'Italia il 100% del PIL, cioè se noi sommiamo tutte le tasse che paghiamo e tutte le spese che lo Stato fa arriviamo a 100, non era mai successo e nel 2009 questo rapporto è salito come mai in un anno soltanto. Allora queste due cose, interposizione pubblica al massimo storico e ultime posizioni in graduatoria nella capacità di far rispettare i contratti, mi sembrano due elementi molto specifici e molto preoccupanti dell'Italia. Sono totalmente d'accordo e per questo abbiamo chiesto al professor Ricolfi, che ricorda a tutti voi con grano salis come siano da prendere queste graduatorie, e non è certo un punto in più e un punto in meno, ma è la posizione di fondo negli anni e soprattutto la fotografia che ci danno di alcuni comparti fondamentali. Ma riflettete, a chi vi dice ma non conta tanto la pressione fiscale, non conta tanto la quantità di spesa, riflettete su questo dato che il professor Ricolfi ci ha appena ricordato: il tasso di interposizione pubblica, ripeto, cioè la somma di tutte le tasse e contributi pagati e di tutta la spesa pubblica uguale al PIL. Ecco, questo è un problema enorme per il nostro paese. Poi naturalmente voi potete pensare che con più Stato invece più è forte presente lo Stato, meglio si risponde alle esigenze dei cittadini. Io ritengo che qualche torto non ce l'avesse ieri il Wall Street Journal in un editoriale dedicato all'Italia che non avete, sottolineo, non avete visto ripreso sui giornali italiani, che a proposito della confronto tra il Berlusconi 1 dell'intervista Repubblica, quello che annunciava la riforma fiscale 22-33%, il Berlusconi 2 che poi al Consiglio dei Ministri dopo tre giorni ha detto no, non si può fare perché la condizione economica del paese non ce lo consente, e l'intervista di Giulio Tremonti resa al Sole 24 Ore, due pagine, l'intervista molto ampia al Sole 24 Ore di domenica, ieri dedicava un editoriale che diceva queste due frasi, vi voglio solo leggere. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, appena uscito da un ospedale dopo l'attacco a cui è stato vittima a Milano, ha annunciato che il taglio delle tasse che aveva promesso due giorni prima non può avvenire in base alla situazione economica. Con tutto il dovuto rispetto, leggo traducendo testualmente l'editoriale del Wall Street Journal, il primo ministro italiano dovrebbe considerare forse l'ipotesi di rientrare in ospedale per un altro check-up, perché è l'unica cosa che il paese non può sopportare, di continuare a essere tassato fino alla stagnazione. Prima frase. Seconda frase, dopo aver considerato che il successo di oltre 100 miliardi di euro di risorse italiane, vedrete che saranno più 120 che 110 alla fine della protrazione dello scudo fiscale ad aprile, grazie alla bassissima aliquota del 5% che diventa poi 6,7 a febbraio e a marzo prossimo, il Wall Street Journal dice forse c'è una lezione che l'Italia dovrebbe ricavare, visto che è così felice di fronte a tutti gli altri paesi avanzati per il maggior successo del suo scudo fiscale. Qual è questa lezione? Invece di continuare a collezionare amnestie, la terza in 8 anni, dice il Wall Street Journal, che hanno successo grazie all'aliquota bassa, evidentemente è l'aliquota bassa che dovrebbe essere adottata sempre dall'Italia come criterio per tutte le sue tasse ordinariamente, e questo aumenterebbe il gettito esattamente come fa la fortuna dello scudo fiscale italiano rispetto a tutti gli altri. Questa è l'opinione del Wall Street Journal, naturalmente, cioè di un tempio di questi feroci azzannatori dei diritti che sarebbero i liberisti secondo l'opinione pubblica prevalente nel nostro paese. Allora, Piero Stellino chiedo, che impressione ti ha fatto la fotografia di alcuni di questi settori in cui siamo così bassi nella graduatoria internazionale? Soprattutto, credi che la botta che viene al mondo dalla crisi con lo Stato che torna sia una botta che nel mondo anglosassone sia permanente, a tempo? Obama, che cosa vuol dire per te da questo punto di vista, per esempio? Ma innanzitutto io consentimi di parlare dell'Italia. Cioè io non mi stupisco di fronte a queste classifiche, io non faccio l'economista, non faccio il sociologo, faccio semplicemente il giornalista o se vogliamo il politologo. Io queste classifiche le trovo già scritte nella nostra Costituzione, dove la proprietà privata è riconosciuta quasi come una calamità e poi condizionata ad un'astrazione ideologica che è l'utilità sociale. Cioè, se mi consentite di fare un esempio che non c'entra niente con la discussione di oggi. Nel 2007, con sentenza numero 26 della Corte Costituzionale, è stata respinta una legge che dichiarava inappellabile da parte del pubblico ministero le sentenze di innocenza pronunciate dai nostri tribunali. Cioè, dice la Corte Costituzionale, se noi non consentiamo al pubblico ministero di appellarsi contro una sentenza di innocenza e quindi rifare il processo, noi mettiamo il cittadino, o meglio, mettiamo lo Stato alla pari del cittadino, perché se il cittadino è condannato ha diritto ad appellarsi, ma perché non deve avere il diritto lo Stato ad appellarsi se il cittadino è riconosciuto innocente? Cioè una sentenza della Corte Costituzionale che mette sullo stesso piano il singolo cittadino imputato che è sottoposto ad un processo e la macchina della giustizia dello Stato che ha poteri investigatori straordinari, che non sostiene le spese come deve sostenere il cittadino per difendersi, li mette sullo stesso piano. Questo nostro Stato è uno Stato sovietico, è uno Stato di socialismo reale truccato dal punto di vista economico da Stato corporativo, cioè siamo uno Stato furbastro che dà un colpo al cerchio del socialismo reale, cioè del comunismo, e poi dà un colpo al cerchio al corporativismo, cioè al fascismo. Cioè noi siamo questo, le classifiche rivelano questo. Quando c'è una sentenza della Corte Costituzionale che recepisce una sentenza della Corte dei diritti dell'uomo europea di Strasburgo che ci condanna 54 volte per l'esproprio, perché noi paghiamo l'esproprio non a prezzo di mercato, la nostra Corte Costituzionale recepisce questa sentenza, dice la Corte di Strasburgo ha ragione, poi come facevano i giornali sovietici aggiunge l'avverbio tuttavia. In russo è adnaka, e dice tuttavia, poiché la proprietà privata deve rispondere ad un'utilità sociale, se lo Stato, dopo aver speso dei soldi per costruire un asilo, non ha i soldi per pagare l'esproprio, vorrà dire che non lo pagherà. Cioè c'è scritto in una sentenza della Corte Costituzionale che non siamo più all'esproprio ma alla confisca. Torniamo in studio, stiamo esaminando il rapporto sull'indice sulla libertà economica 2010 del Heritage Wall Street Journal per l'Italia, Bruno Leoni, che oggi anticipa il Wall Street Journal. Avevo interrotto Stellino, la seconda parte però, quella che riguardava il giudizio quello internazionale, dopo che ci ha ricordato le pronunzie delle diverse corti internazionali sull'Italia e anche i caratteri costituzionali del nostro Stato molto pubblicista sovietico, dice lui. La rinviamo dopo due interventi degli ascoltatori. Iniziamo con Roberto da Milano. Prego Roberto. Buongiorno dottore, io ho chiamato per questo. Sono un ex trasportatore, per cui quando svolgevo la mia attività mi avvalevo di una tariffa chiamata così a forcella o nazionale, dove erano stabilite le cifre per i trasporti che io dovevo effettuare. Le committenze non le hanno mai rispettate, ho portato a giudizio una mia committenza che mi doveva dare le differenze fra le tariffe percepite e quello che mi doveva dare. Però sta di fatto che un CTU di Milano, di cui io già precedentemente l'avevo già denunciato, fatto un esposto ai carabinieri per un'altra causa sempre tariffaria, ci ha impiegato 2 anni per verificare i conteggi e il giudice 3 anni per emettere la sentenza. Pur avendo ragione, hanno mandato tutto in prescrizione, hanno garantito l'impunità a quell'impresa che è stata portata a giudizio da diversi trasportatori, però sono stato beffato e non so a dire a questo paese che è in Europa, che vanta tanti privilegi e tante cose, che poi alla fine siamo un paese del terzo mondo. Grazie Roberto da Milano, un esempio concreto di mancato rispetto dei diritti privati e commerciali e di come quindi in questo caso i tempi lunghi significano assenza di certezza del diritto, il che significa in termini di concorrenza poi l'affermazione di diritti preminenti del più forte, di chi magari ha una maggiore impropria capacità di indurre alla mancata impugnativa coloro che non vengono tutelati in un trasparente rapporto contrattuale. Ci capiamo, questo può voler dire pressione di impropria influenza politica nei casi per esempio quando si lavora con la pubblica amministrazione, può voler dire invece malavita organizzata quando gli interessi sono di altro tipo, può voler dire anche semplicemente forza relativa del conto economico e dell'attivo patrimoniale. In ogni caso si tratta ovviamente di una concorrenza alterata e che viene considerato non solo con gli occhi di un operatore straniero ma anche nella vita, ohimè, degli operatori italiani come Roberto da Milano, una amara considerazione che non induce certo a espandere le proprie attività o a incardinarle in un paese. Roberto da Roma, la sua esperienza invece? Pronto, buongiorno. Vi porto la mia esperienza dal Canada, dove ho vissuto per diversi anni. Lì per esempio per formare un SRL bastano poche decine di dollari, una ventina di minuti, l'SRL è bella che è fatta, non viene tartassata dalle tasse, a meno che non guadagna, e non ha bisogno né di commercialisti, né di avvocati, né di capitale versato, assolutamente niente. Scusate, un fiatone, ho fatto le scale. Questo per quanto riguarda... La interrompo solo per ricordare che nella graduatoria 2010 della libertà economica in Canada è al settimo posto rispetto al nostro 74esimo, ecco, quindi... Esatto, e poi inoltre per un'esperienza diretta volevo dare il via ad una società che facesse un'attività, svolgesse un'attività via internet completamente illecita. Mi sono rivolto ad un avvocato che tra le righe mi ha fatto capire, dice: guarda, ci sono tanti di quei cavilli burocratici per svolgere questa attività che ti conviene fare come un altro mio cliente che è andato all'estero, ha aperto una società all'estero e svolge un'attività tra l'altro illegale in Italia tranquillamente solo perché ha aperto la società all'estero, non ha cavilli burocratici e non ha problemi con la legge. Beh, benissimo, grazie a Roberto da Roma, nuove istantanee sulla situazione italiana. Ostellino, invece diciamo, le botte stataliste straniere e anglosassone come le considera? Ma sono un fatto congiunturale secondo me, perché è stato un momento particolare, la crisi finanziaria che ha inciso e finisce con l'incidere sull'economia reale, insomma a mio avviso è una questione di cultura politica, cioè quelli sono paesi che non hanno una cultura politica statalista, mentre noi l'abbiamo. Facciamo un altro esempio semplice. Guido Carli, cioè un signore che è stato presidente della Confindustria, cercò di far approvare dalla Confindustria, uno statuto dell'impresa nel quale si separavano nettamente quanto c'era di statalista nell'economia privata e quanto c'era di imprenditorialità. Bene, la Confindustria ha bocciato all'unanimità questo statuto dell'impresa. Lo stesso Guido Carli aveva scritto nelle sue memorie che le tangenti, Tangentopoli, era stata la risposta del sistema economico all'apertura alla concorrenza dell'Italia con l'ingresso nella comunità economica europea. Cioè, in altri termini, le tangenti erano il modo attraverso il quale il sistema economico ripristinava la presenza dello Stato, del pubblico nell'economia attraverso un artificio. Che cosa fecero allora i giornali italiani? Scrissero che c'erano dei corrotti, che erano i politici, ma non parlarono dei corruttori, che erano invece il sistema economico. In questi giorni si è fatto l'elogio di Craxi, come riformatore, come statista, come uomo politico, ma nessuno si è chiesto: ma allora perché l'avete cacciato? Perché se ci fosse posti questa domanda ci sarebbe dovuto rispondere che cosa sono stati Tangentopoli e Mani Pulite? Ma Tangentopoli e Mani Pulite sono la rappresentazione della nostra cattiva coscienza. E nessuno ha voluto parlarne, perché ovviamente non è interessato nessuno, non ne sono interessati quelli che ne sono usciti vincitori, come ad esempio i postcomunisti, non ne sono interessati i giornali che sono di proprietà di quello stesso sistema economico che aveva prodotto le tangenti, che aveva prodotto la corruzione del sistema politico che a sua volta aveva prodotto la concussione del sistema economico. Siamo un paese di furbastri. Talvolta anche giornalisti, grandi direttori che sono diventati grandi difensori oggi di coloro che invece, per così dire, dicono che la Prima Repubblica è stata un colpo, un'ordalia, e dicono via Craxi oggi, hanno fatto tutte le loro fortune grazie ai verbali dati dalle procure, perché insomma sappiamo che avviene. Quindi sono molto d'accordo anche con questa opinione sulla furberia un po' italiana. Professor Perotti, alla luce della ripresa che vediamo, come si può stimare, del commercio mondiale, ma la ripresa del prodotto nell'anno prossimo, soprattutto trainata da Cina, Brasile, India e così via, forse però c'è anche della ragionevolezza nel dire che bisogna concentrarsi nel breve tempo per un paese come l'Italia su altri aspetti piuttosto che su questi aspetti che nell'indice generale della libertà ci portano in basso, oppure i due esempi che ha fatto lei che la preoccupano ulteriormente rispetto al giudizio già abbastanza severo del rapporto della Heritage, secondo lei ci aiuterebbero proprio nella difficoltà mondiale per un paese che esporta come noi e dovrebbero essere considerati prioritari? Cioè, non so se sono stato esplicito e chiaro nella mia domanda. Ma la giustizia, riforma della giustizia, a mio avviso è una questione di lunghissimo periodo, non so se succederà mai, le promesse non sono incoraggianti, se succederà, succederà in tempi molto lunghi, quindi non vedo un ruolo congiunturale della riforma della giustizia, che però sono d'accordo con Rigolfi, è il problema numero uno in Italia, come abbiamo anche sentito l'ascoltatore. La lunghezza della giustizia genera molto semplicemente una disaffezione degli individui dallo Stato, è tutto qua, e alla lunga questo ha effetti devastanti. Quindi è importante, è fondamentale, ma non credo che abbia un ruolo congiunturale importante. La riforma del sistema finanziario, le modifiche al sistema finanziario per renderlo effettivamente concorrenziale nei fatti e non solo a parole, anche questo è una questione di lungo periodo, una questione di cultura politica, anche questo non so se succederà mai, perché una volta che un settore importante, un settore finanziario è nelle mani del settore pubblico, in parte nelle mani del settore pubblico, nessuno vuole mollarlo. Quindi anche questo non credo che abbia un ruolo congiunturale. Mi tocca dire che, siccome dal dibattito, la piega che prende il dibattito, il dibattito pubblico italiano, anche l'aspetto fiscale mi sembra avviato a una prospettiva molto pluriennale, ohimè ci becchiamo questo giudizio dell'ennesima fotografia della libertà economica italiana non molto esaltante, anzi molto preoccupante, ma la conclusione ragionevolmente ai quali dobbiamo invitare i nostri ascoltatori è quella di non credere che dietro l'angolo ci siano svolte, e quindi continueremo, per questo, come ovvio dal mio punto di vista molto liberista, a rompere le scatole ai politici, agli ascoltatori e a difendere gli operatori economici che vorrebbero meno gravami, non perché sono degli anarcocapitalisti o delle belve, ma semplicemente perché c'è troppo di pubblico. Ricordate, 100% somma di spesa pubblica e tasse e contributi dati allo Stato nel 2009 in Italia, un record di cui vergognarsi. Grazie in regia a Paolo Corleoni, grazie a Alessandro Marcotulli che mi aiuta come sempre a stare in piedi in queste trasmissioni. La linea al giornale radio, l'appuntamento a domani, grazie agli ospiti anche.